Vi è un dibattito tra cattolici e protestanti che sembra non finire. Gesù aveva dei fratelli, oppure no, Maria ha avuto altri figli, oltre Gesù. Il cattolicesimo afferma che Maria ebbe solo un figlio, per opera dello Spirito Santo, mentre i protestanti ritengono che Maria abbia avuto altri figli. E poiché la scrittura per entrambi è autorevole in materia di fede, anche se per i cattolici lo è assieme alla tradizione, consideriamo ancora una volta cosa afferma la parola di Dio in merito, perché la verità può essere solo trovata, ma non prodotta. Leggiamo un brano dal Vangelo di Matteo. Ora, mentre egli parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli, quali, fermatisi fuori, cercavano di parlargli. E qualcuno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che lo aveva informato: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? E, distesa la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. Matteo 12, 46-50. In questo episodio evangelico per 5 volte viene a trovarsi la parola fratello. Senza voler fare scuola di linguistica, la maggioranza delle persone sanno che il termine greco, dal quale noi traduciamo il termine fratello, è adelfos, si legge adelfo. Questo vocabolo, secondo la descrizione del Dizionario dei Concetti Biblici, edito dalle Edizioni Deoniane S.T.A., a indicare il FR Antico Testamento e LLO Carnale, colui che è in Antico Testamento dal medesimo senom Antico Testamento Erno. Perciò chi legge comprende subito che Gesù aveva dei fratelli nati dalla madre, Maria. L'esplicita affermazione della scrittura che Gesù aveva dei fratelli, i quali assieme a Maria volevano parlare con Gesù, espone una situazione concreta dalla quale Gesù prende spunto, come era sua abitudine, per porre una domanda: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E dare la relativa risposta, allo scopo di annunciare un qualcosa del tutto innovativo. Non è difficile intuirlo, perché Gesù sapeva chi erano sua madre e i suoi fratelli, perciò la domanda non era per nulla retorica, ma fu presentata all'uditorio affinché prendessero coscienza di una realtà fino allora a loro sconosciuta. A prima vista, la risposta al nostro interrogativo sarebbe già risolta, perché in modo inequivocabile troviamo scritto che Gesù aveva dei fratelli. Ma non è così. Il cattolicesimo, valendosi di certe sfumature del termine, fa notare che la parola fratello veniva usata anche per i parenti più prossimi, come cugini e cognati, e che quindi il suddetto termine in questo brano non dimostra che si trattasse di fratelli nati dalla stessa madre, ma fratellastri, cioè figli di una parente di Maria o i figli nati da un precedente matrimonio di Giuseppe. Riflessione apparentemente più che giusta, perché di fatto i parenti più stretti venivano anche chiamati fratelli, ma nel brano che abbiamo letto questa interpretazione stona molto e non è possibile applicarla. Se Gesù stava utilizzando il vocabolo per riferirsi ai suoi cugini o fratellastri, allora il discorso meno per essere in armonia con tutto il brano meno deve essere interpretato così: ecco mia madre e i miei cugini, poiché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio cugino, sorella e madre. Matteo 12, 46-50. Non credo che una simile interpretazione possa essere accolta da dei seri biblisti, neppure nell'ambito cattolico. Tant'è vero che nel Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo Testamento, redatto con la collaborazione di illustri esperti esegeti, professori di università, docenti di seminari o istituti superiori e numerosi parroci, alla voce fratello, dopo aver detto che questo termine sta a indicare il fratello carnale, colui che è nato dal medesimo seno materno, essi sono costretti a confessare che tuttavia non abbiamo nel Nuovo Testamento passi in cui Adelfos S.I. riferisca sicuramente Nuovo Testamento e AUN, altro tipo di pare Nuovo Testamento e L.A., pag. 732. Inoltre, continua il Dizionario dei Concetti, ma la voce più autorevole è certamente quella di Gesù stesso, che non si è mai e poi mai riferito a dei parenti, a dei cugini o fratellastri, ma solo a dei fratelli. Infatti chi pone una fede consapevole in Cristo diventa un figlio di Dio e di fatto anche fratello di Gesù, cioè partecipe della sua stessa natura divina mediante lo Spirito Santo. 2 Pietro 1.4. Questa teologia del resto è professata anche dalla fede cattolico-romana, solo che quando legge Fratelli di Gesù per salvare il dogma della perpetua verginità di Maria, si trova costretto a dimenticare che non vi è nessun passo nel Nuovo Testamento in cui Adelfos si riferisca ad un altro tipo di parentela, fino ad arrivare nel suo catechismo a sostenere che i Fratelli di Gesù sono i figli di una Maria discepola di Cristo. 500. Da dove arriva tanta insistenza da parte del cattolicesimo nel sostenere che Maria abbia avuto solo un 501? È probabile che non tutti lo sappiano, ma gran parte di questa convinzione è stata prodotta dai Vangeli apocrifi. Nel Protovangelo di Giacomo, che contiene nuclei narrativi antichi, da potersi far risalire anche alla metà del secondo secolo, si parla con toni poetici della nascita miracolosa di Maria da Gioacchino e Anna, della sua infanzia nel Tempio, della sua perpetua verginità, delle nozze con il canuto Giuseppe, il quale aveva avuto figli da un precedente matrimonio, e dei Fratelli di Gesù, dei quali parlano i Vangeli, e che non avrebbero potuto essere figli della sempre Vergine Maria. Perciò quando il cattolicesimo dichiara di appellarsi alla tradizione, la quale, per quanto distinta dalla Sacra Scrittura, ne è strettamente legata, e che l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto, 78-82, intende riferirsi anche a dei libri che non sono riconosciuti autorevoli. E chi dice che non sono autorevoli? Forse i protestanti che non condividono in questo l'opinione del cattolicesimo? Tutt'altro! Chi è che può definire il bene o il male? Sono forse gli uomini o le varie religioni? Assolutamente no! E desseti apoto che definisce ciò che è giusto e sbagliato, e poiché abbiamo la Bibbia, quella che viene ritenuta parola di Dio, sia dai cattolici sia dai protestanti, tutto ciò che non è conforme al volere di Dio come è espresso nella Scrittura è da ritenersi sbagliato. Qualcuno dirà che la Bibbia non parla di tutto e che ci sono cose o verità da doversi applicare, e questo è vero, ma una cosa è un aspetto extrabiblico. Altra è che sia antibiblico. La differenza è enorme. La questione dei Fratelli di Gesù non è extrabiblico ma antibiblico. Si tratta di un errato approccio ermeneutico, cioè di quella disciplina che regola l'interpretazione di antichi testi. È vero che l'interpretazione romano-cattolica ritiene la parola fratelli riferita ai cugini di Gesù, perché il termine adelfos è diventato sinonimo anche di fratello in senso lato, ma prendere questa verità per applicarla a quello al suddetto discorso rivolto da Gesù alla folla, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, è una forzatura imbarazzante anche tra gli stessi teologi cattolici. E come dire che le concubine venivano chiamate anche mogli? Genesi 35.22-37.2. Ma non per questo non vi era più distinzione tra mogli e concubine. Che poi nell'uso ebraico non si avessero vocaboli distinti per i vari gradi di parentela è una verità da spiegare. Che i parenti, i propri connazionali o anche un amico affezionato fossero chiamati fratelli è un dato di fatto che troviamo nella Bibbia. Ma forse questo modo di esprimersi era dovuto più alla cultura che alla mancanza di una distinzione tra il fratello e il cugino. Quando il profeta Geremia comprò un campo da Hanamel, figlio di suo zio, consegnò l'atto di compra a Baruch, il suo scriba. E una versione autorevole, traduzione di Giovanni Diodati, dice che lo fece in presenza di suo cugino. Geremia 32.12. È vero che molte versioni hanno tradotto che lo fece in presenza del figlio di suo zio, ma comunque il profeta non ha detto che era suo fratello. Inoltre, affermare che ai tempi di Gesù non veniva usato il termine cugino è molto difficile da provare. Perché Giovanni, soprannominato Marco, viene definito cugino di Barnaba. Colossesi 4.10. Perciò, quando qualcuno disse a Gesù che i suoi fratelli volevano parlargli, nulla toglie che fossero coloro nati dal medesimo seno materno. Un nota della Bibbia di Bonaventura Mariani, una traduzione cattolica, dice che in questo caso potrebbe trattarsi di cugini. Una spiegazione che mette un'ipotesi. Purtroppo, ormai abbiamo assistito e assistiamo alla trasformazione di tante mere congetture, difficili da scardinare in verità. Prendiamo l'esempio della teoria dell'evoluzione. Tutti sanno, perfino gli scienziati più atei, che la teoria dell'evoluzione è soltanto una teoria, in relazione alla quale nulla si è provato scientificamente. Eppure questa teoria viene insegnata come se fosse una verità ormai appurata, al punto da aver provocato la proposta di vietare l'insegnamento di una causa divina. Stessa cosa in merito ai fratelli di Gesù. Ipotesi su di un termine, nulla di certo o di provato, eppure questo dubbio o incertezza diventa una certezza. Quando l'apostolo Paolo si giustificò dicendo: non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore, e Cefa, 1 Corinzi 9.5, ci è da rimanere perplessi. Se i fratelli del Signore fossero stati tali in senso spirituale, perché distinguerli dagli apostoli e da Pietro, i quali erano a loro volta fratelli in senso spirituale? Sono troppe le ragioni che ci portano a concludere che Gesù aveva dei fratelli nati da Maria, e come se ciò non bastasse, riecheggiano per l'eternità le parole profetiche di Cristo pronunciate tramite il salmista e ripetute da Gesù stesso. Sono diventato un estraneo per i miei fratelli e un forestiero per i figli di mia madre. Poiché lo zelo della tua casa mi ha divorato e gli oltraggi di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Salmo 69.79. Gesù era diventato un forestiero ai figli di sua madre. I fratelli di Gesù pensavano che fosse matto, quindi egli per loro era diventato un estraneo. Esperienza, questa, possibile a tutti. Gesù ci è predicato e conosciuto, ogni anno celebriamo delle feste in suo onore. Nonostante tutto questo, egli è uno sconosciuto alla maggioranza. Che non sia così anche per noi. Dicembre 2002, di Ellero,